Europa 24. Sono le 14:02, un saluto da Gigi Donelli. L'Europa oggi ci racconta che non c'è per ora nessun accordo di libero scambio entro fine anno, come si ipotizzava a Bruxelles, tra Unione Europea e Giappone, a bloccare i nodi del settore auto e dell'agroalimentare. Dunque terminati con un nulla di fatto i negoziati a Tokyo, la cui ambizione era invece di arrivare a chiudere. Poi la Commissione europea ha approvato due regimi di sostegno pubblico italiano destinati a incoraggiare la transizione del trasporto merci dalla strada alle ferrovie al mare. Le misure, scrive la Commissione, contribuiranno ulteriormente agli obiettivi UE in materia di ambiente e trasporti, mantenendo nel contempo la concorrenza nel mercato unico. Intanto nuove segnalazioni circa i trasporti e l'impatto in termini di smog sulla salute. Sentiamo tutto nel servizio della nostra Anna Marino. Altri numeri, altri dati europei che mostrano come i trasporti in Europa continueranno a mettere sotto pressione l'ambiente con smog, traffico e rumore. Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a lungo termine richiederà ancora sforzi notevoli. A sottolineare questo è l'Agenzia Europea dell'Ambiente nel rapporto verso una mobilità pulita e intelligente, in cui si rileva che la domanda di trasporto continuerà a crescere. La Commissione Europea stima che entro il 2050 il trasporto di passeggeri aumenterà di circa il 40%, con l'aviazione come settore in più rapida crescita. Mentre per il trasporto merci è previsto un più 58%. E nonostante i progressi che gli Stati membri dell'Europa stanno facendo, le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aumentare tra il 2030 e il 2050 del 15% rispetto ai livelli del 1990, balzo superiore al target di riduzione del 60% proposto per il 2050. Ma per raggiungere gli obiettivi, anche europei, bisogna partire dal basso, con soluzioni rapide, selezionate e semplici da realizzare, come spiega Giuliano Dallò, professore di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano. A partire da subito occorre pensare a una gestione dell'efficienza energetica negli edifici, in particolare nel parco edilizio esistente, che non sia una gestione di emergenza. Penso che l'Europa vada avanti a fissare delle percentuali di riduzione, questo è il mio parere personale, senza tener conto del percorso che deve essere fatto per arrivare a quelle percentuali di riduzione. Cioè, sembra quasi una gara, non basta spostare il numero per ottenere, bisogna lavorare dal basso. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. La fiscalità in Europa è uno dei grandi nodi, davvero degli dossier più spinosi dei rapporti tra gli stati. Le differenze di aliquote fanno scontrare e orientano anche gli investimenti. Un caso ben noto è quello dell'Irlanda, e oggi, pensate, il governo irlandese ha annunciato un ricorso contro la decisione della Commissione europea, che ha chiesto alla Apple Computer, ovviamente, la restituzione di 13 miliardi di euro in imposte non versate al fisco di Dublino. In un comunicato del Ministero del Tesoro, Dublino afferma che si tratta di un'interferenza nella sovranità nazionale e che Bruxelles avrebbe avuto una comprensione errata di come funziona la tassazione delle multinazionali. Infine, l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini ha lodato il governo ucraino per la decisione di nazionalizzare Private Bank, la banca più grande del paese, che contribuirà a stabilizzare l'intero sistema bancario, appunto, del paese centro orientale, paese che proprio in questi giorni vive una trattativa intensa per affermare quegli accordi di libero scambio e di avvicinamento progressivo all'Unione Europea, che, non dimentichiamolo, ormai 3 anni e qualche settimana fa innescarono il meccanismo di Maidan e la situazione di guerra che continua nell'est del paese. Bene, con questo è tutto. Quando sono ormai quasi le 14:06, ora come sempre tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.